lascia il mandolin, che il tempo è il passato. Risuona, risuona la mia canzone, come una volta. Dai Maria, mette sdre a balà, che il tempo è il solta. Vuoi ricantare una per te, come una volta. Perché il tempo passa, perché il tempo passa, perché il tempo ruba, perché il tempo ruba, sì. Le come il mat con ti so canzon d'amor, le come il mat che il canta. Le come il mat con ti so canzon d'amor, le come il mat che il canta. E quanti anni, Maria, quanti anni, non me ne sono accorto. E perché il tempo non si fermerà in nessun posto. Ma la canzone è sempre una canzone, e me la so a memoria. Dai Maria, le chance matte me, che il tempo dorma. Perché il tempo passa, perché il tempo passa, perché il tempo ruba, perché il tempo ruba, sì. Le come il mat con ti so canzon d'amor, le come il mat che il canta. Le come il mat con ti so canzon d'amor, le come il mat che il canta. Le come il mat che il canta. Le come il mat con ti so canzon d'amor. Le come il mat che il canta.